Ciao a tutti ragazzi e ragazze, fringuelli sperduti di campagna, come state? A me mi si stanno gelando le natiche. Ben ritrovati su Radio Wombat. Ora vi starete chiedendo chi cazzo è questo qui che è entrato a gamba tesa nelle ganasce, nei denti, così dal nulla. Ebbene, io sono l'elettricista e oggi, anno domini 1802-2021, do inizio con il mio programma di musica. In cui spero di iniziare una lunga e prolifica rubrica di musica. Parleremo di rock e di tutti i suoi sottogeneri, anche di heavy metal e nulla. Spero vi piaccia e vi do il benvenuto a Diabolus in Musica. Sigla! Ebbene, oggi inizieremo, vorrei iniziare, a parlare dello stoner rock metal e dello sludge metal. Ma per fare questo dovrò iniziare, andare indietro nel tempo, e iniziare dal Doom. Ebbene, che cos'è il Doom? Allora, il Doom nasce praticamente negli anni 70 con i Black Sabbath, band di culto della vita, che inventò un sound geniale e innovativo mai sentito prima. Immaginatevi di stare in quegli anni e di ascoltare band psichedeliche, ma dal nulla spuntano questi capelloni imbruttiti e oscuri che vi fanno ascoltare questa musica cattivissima. Ebbene, dei geni visionari, sì. Con il loro sound poi si propagò in tutto il mondo e negli anni Ottanta venne imitato e reinterpretato dando vita appunto al Doom. Quindi partiamo da qua, l'esoterico e luciferino Doom Metal. Allora, il doom metal è un sottogenere dell'heavy metal, appunto, tra l'altro genere che hanno inventato i Black Sabbath, anche loro precursori anche di quello, diciamo che sono precursori di tutto un genere in generale molto grande. Il doom è caratterizzato da andature molto lente, cupe e da accordature strumentali molto basse e gonfie. Queste particolarità permisero alla corrente musicale di differenziarsi dal genere di partenza, appunto l'heavy metal, per via di questo sound molto più pesante e più spesso. I ritmi lenti del genere lo rendono noto, evocano, che lo rendono noto, scusate, evocano atmosfere decadenti accentuate spesso da argomenti riguardanti l'occulto, l'introspezione e la sofferenza. Le strutture musicali affondano le radici nel blues, ne sfruttano le scale e i toni tipici del genere. La tecnica compositiva in molti casi è simile a quella dell'heavy metal, vuol dire che chitarra e basso suonano gli stessi riff all'unisono, creando così un muro di suono fortissimo e pesante. Si può dire che dal doom metal si sono distinti tantissimi sottogeneri, ma quelli che per ora mi interessa analizzare nel particolare sono appunto lo stoner rock, come dicevo prima, e o metal, e lo sludge metal, i quali poi si sono ulteriormente evoluti dando vita a tanti altri sottogeneri e sottocategorie. Ebbene, quindi partiamo dal Doom, per poi arrivare e vedremo nel tempo come queste sonorità oscure si evolveranno e daranno vita a tantissimi generi e tantissime band fuori di testa di cui poi vi parlerò e vi farò ascoltare. Allora, come dicevo prima, al sommo della categoria ritroviamo gli immortali Black Sabbath, che appunto, mi ripeto, ma si possono definire i padri di tutto il metal moderno. Insieme naturalmente a qualche altro gruppo, ma per l'originalità e il loro genio assoluto e per gli anni in cui venne fuori la musica se ne possono prendere tutto il merito. Erano appunto i visionari e con i loro primi quattro lavori hanno gettato le basi e le fondamenta per permettere ai musicisti futuri di ampliare il genere, trovando modi sempre più estremi di interpretarlo, facendo nascere tante altre correnti musicali. Basti pensare ai ragazzi del black metal in Norvegia. Come dicevo prima, nella metà degli anni Ottanta altri gruppi poi si distinsero nelle scene musicali, ispirati sempre dai Sabbath, e contribuirono al delineare il Doom, codificandolo del tutto, e quindi poi dando vita alla corrente vera e propria del genere. Tra i più importanti si possono citare gli statunitensi Pentagram, i St. Vitus e i Trouble. In Inghilterra invece si citano i Pagan Altar, i Witchfinder General e in Svezia i ciccioni Candlemas. Ma veniamo a noi, i fottuti Black Sabbath. Allora, questi signori si formarono in Inghilterra intorno al 1968. Considerati pionieri assoluti dell'heavy metal, con i loro primi quattro album hanno sconquassato il mondo della musica, tirando schiaffi in bocca a quegli scorreggioni degli hippie che si rotolavano strafatti di acido nei parchetti, e hanno dettato legge. L'eco della loro musica si può ancora percepire tutt'oggi ascoltando diverse band moderne. La formazione storica del gruppo è la seguente: Ozzy Osbourne alla voce, Geezer Butler al basso, Bill Ward alla batteria e il cazzotissimo caprino adepto di Satana, Tony Iommi. Il loro nome Black Sabbath deriva dal titolo inglese del film del genio dell'horror italiano Mario Bava. In italiano, i tre volti della paura, per gli intenditori. Questo contribuì a rinforzare l'alone terrorifico e orrorifico di cui cercava di circondarsi, che la band cercava di appiopparsi addosso, e a diffondere un'immagine molto forte della loro musica. Nessuno prima di loro, forse pochi, avevano introdotto queste tematiche, queste immagini fortissime, oscure, esoteriche. E quindi partiamo subito con gli ascolti. Vi farò ascoltare un brano che sicuramente conoscete tutti, è sputtanatissimo. È il loro vento nel mondo della musica e Cristo fa le buche ancora oggi. Il brano è accompagnato da una leggenda, tra l'altro, giusto per rafforzarla, che poi ispirò Osborne nella stesura del testo. Il bassista a quei tempi era appassionato di occultismo e ricevette in regalo di Ozzy Osbourne un libro in latino che trattava i temi dell'occulto, per l'appunto. Butler, dopo averlo letto, lo ripose su uno scaffale vicino al letto e andò a dormire. Quando si svegliò, vide davanti a sé, ai piedi del letto, una figura nera enorme che lo indicava. Quell'enorme sagoma scomparve subito dopo e Butler notò che il libro non era più dove l'aveva appoggiato, era scomparso. Un'altra chicca da sapere su questo brano è che il riff, ma anzi, una chicca, una cosa importantissima, il riff principale di questa canzone è un tritono invertito. È un particolare intervallo musicale che è noto come il Diabolus in musica, che tra l'altro dà anche il nome al programma, e veniva usato nella Western Music molti anni prima per suggerire e conferire un'aria sinistra alla musica, un'impressione satanica. Quindi venne praticamente bannato e bloccato, non, era quasi un errore usarlo, era proibito, ecco. Insomma, mica una canzoncina da Prado e Cannet. Ebbene a noi, signori, definita dagli storici musicali come la prima canzone doom metal mai suonata, e a detta di altri il brano con il riff più definitivo dell'heavy metal, signori e signorine, tratte dal loro primo album, l'omonimo Black Sabbath, rilasciato nel febbraio del 1970. Prima traccia del disco, Black Sabbath. shape with eyes of fire. Ragazzi, questa era Black Sabbath, tratta dall'album omonimo Black Sabbath del 1970. Bene, come abbiamo sentito, tutti i toni oscuri, bassi, distortissimi del genere del doom, appunto, di cui si parlava prima, ci sono tutti. Per non parlare delle liriche che fanno apertamente riferimento a temi dell'occulto. E forse nella musica solo prima di loro solo i Led Zeppelin avevano introdotto e suggerito queste tematiche. Basti pensare ai loghi che avevano scelti per loro e che si portavano in giro, insomma, come per esempio il logo di Jimmy Page, Zoso, che era preso da un libro di Aleister Crowley, figura sinistra e emblematica del mondo esoterico. Per dirne un'altra, senza un pezzo del genere, un brano come questo, nessuna canzone moderna del metal più estremo sarebbe nata, sarebbe stato impossibile. Un sound del genere è stato virale, è stato un virus che si è propagato nel mondo e è stato bellissimo, perché poi è nato tutto quello che conosciamo benissimo. Ma va bene, andiamo avanti adesso. Vi faccio ascoltare un altro brano tratto dallo stesso CD. Altro riff imponente accompagnato da una distortissima armonica a bocca. Quindi secondo pezzo, altro giro ragazzi, The Wizard. We'll be right back. perché Lucifero benedica i Black Sabbath, ragazzi. Perché se si fosse sintonizzato adesso qui su Radio Wombat, io sono l'elettricista e questo è Diabolus in musica. Andiamo avanti, ragazzi. Terminiamo così l'album del 70 dei Black Sabbath e passiamo al secondo album della band anglosassone, Paranoid, CD della Culto della Vita, OES. Venne rilasciato sempre nello stesso anno, ma a settembre. Per dirvi, questi signori in un solo anno tirano fuori due album che definirono la storia del rock per sempre. Wow. Bene, Paranoid contiene i brani forse più noti della band, come War Pigs, Iron Man e la canzone omonima Paranoid, cavalcata incredibile. L'album è rimasta nella top 10 della UK Album Chart fino all'alba all'uscita di 13, album del 2013. I brani contenuti all'interno di questo CD forse sono quelli che più di tutti hanno dato un'indicazione precisa e mirata ai futuri musicisti su come interpretare, rielaborare e migliorare il doom o heavy metal, che sia. Come vedrete, quando si affronteranno le altre band degli ultimi 10-20 anni, dei riff del genere ve li ritroverete sempre in un modo o nell'altro, rigirati, digeriti e ricurgitati, soprattutto in band definite sludge come i Melvins o gli Hyatt God che uscirono dopo, insomma, sui quali poi arriverò più tardi a parlarvi e non vedo l'ora. Ma bando alle ciance, ascoltiamo il brano che apre quest'album della Madonna. Il riff di apertura è una montagna che ti casca addosso, un palazzo che va in fiamme, una ginocchiata nei denti. In alto le corna, signori, questa è War Pigs. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Wash my hands. Oh, Lord, yeah. Thank you. darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah. Madonna ragazzi, che pezzacchione. Mai mi dicono, ma che cazzo ti viene nel cervello per chi... Come fai a chiudere un pezzo così? Penso sia la chiusura del brano più bella della storia della musica. Comunque, andiamo avanti. Altro pezzo, altro giro ragazzi. Sempre tratto dallo stesso album Paranoid del 1970. Ecco a voi ragazzi la famosissima, sputtanatissima, peccato, e colossale Iron Man. Questa è dedicata a quello stronzo di Manuel. Oh! questa Fringuelli era Iron Man. Bene ragazzi, come avete sentito finora, questi pezzi hanno dei riff mastodontici, immortali e immorali. E teneteli bene a mente, perché quando affronteremo le band più avanti li risenterete sempre, questi riff. Saranno... queste sono le basi, sono proprio lo stoner e lo sludge, sono tutte qui, in questi brani qua. Perché questi riff, diciamolo, sono la Bibbia, lo sono stata, la sacra Bibbia del rock per tutti i musicisti del mondo. E nessuno può fare a meno di rendergli omaggio. Come il prossimo intro del prossimo brano che vi farò ascoltare. Una linea di basso importantissima per il futuro sound stoner rock che si verrà a creare. Perciò a noi, concentrazio. Sesto brano di Paranoid, Hand of Doom. Gonna do. Time's caught up with you. Now you wait your turn. You know there's no return. Was the bomb skin starts turning green. Your eyes no longer see. Life's reality. Questa, Fringuelli, era Hand of Doom, tratta dall'album Paranoid del 1970. Bene, adesso chiudiamo questo CD e passiamo al prossimo, Masters of Reality. Come se non fossero soddisfatti, con questo CD del luglio del 1971 i Black Sabbath gettano le fondamenta, insieme ad altre band, per altri due sottogeneri del Doom, che si sarebbero manifestati solo nella metà degli anni 80 con i primi lavori dei Melvins per quanto riguarda lo sludge, e nei primi del 90 con i Caius per quanto riguarda lo stoner rock. Quindi partiamo subito con il brano che apre l'album, questa è Sweet Leaf. Chi capirà il riferimento riceverà un lecca lecca e un vibratore. Ciao Fritto! You Oh yeah! Maledetta la droga, ragazzi. Vabbè, secondo ed ultimo brano che vi farò ascoltare è la sesta traccia del CD, brano importantissimo per lo sviluppo dello stoner rock, Lord of This World. Thank you. Bene, con questa Love of This World chiudiamo l'album Masters of Reality del 1971. E passiamo all'altro album, al prossimo, il quarto album della band ed è l'ultimo anche che affronteremo dei Black Sabbath. Sì, perché potrei continuare all'infinito con loro, ma voglio arrivare alle cose belle e ci dobbiamo muovere. Ho così tanti gruppi da farvi ascoltare, ragazzi. Andiamo avanti. Bene. Volume 4, rilasciato nel settembre del 1972. I Sabbath crescono artisticamente, affinano la tecnica e si concedono delle ballate come la magnifica Changes. E ancora una volta stupiscono. È inutile dire ormai che anche i prossimi due brani che vi farò ascoltare saranno decisivi per il genere, quindi non mi dilungherò oltre, vi lascio alla musica. In ordine queste sono la quinta e la settima canzone dell'album, Supernaut e Cornucopia. Partiamo con la spaziale Supernauts. We'll be right back. Questa era Super Now, trattata volume 4 del 1972. Passiamo con l'altra, ragazzi, Cornucopia, Madonna come parte. Bene, fin quelli, con questa cornucopia del volume 4 del 72 chiudiamo il nostro esoterico viaggio con i Black Sabbath. Mi fermo qui, perché i loro altri album, pur essendo degli album fantastici, non li prendo perché ormai ho abbastanza materiale per poter affrontare i generi che verranno dopo, lo sludge e lo stoner rock. Credo di avere abbastanza materiale, quindi andiamo avanti. Come si è già detto prima, negli anni 80 negli Stati Uniti, ispirati dai Sabbath, altri gruppi proposero uno stile heavy metal altrettanto cupo e quindi definibile doom. Uno dei gruppi più noti di cui inizierò a parlare adesso sono i virginiani Pentagram, band di culto e anche loro definiti pionieri dell'heavy metal. Furono molto prolifici nella scena underground americana degli anni 70, producendo molti demo e cassette. Ma il loro primo album vero e proprio non uscì fino ai primi anni degli anni 80. Madonna, mi sto attortigliando. Wow! L'unico membro fisso della band negli anni rimarrà sempre il cantante, il Bobby Liebling, il quale nel 71, ispirato dalle band metal e hard rock emergenti come gli UFO, i già citati Sabbath, gli Uriah Heep e Sea Lord Baltimore, formò i Pentagram. Dopo innumerevoli demo tape e cambi di membri, a Bobby Liebling si unirono il chitarrista Victor Griffin e il bassista Lee Ebney, fondatori del gruppo Death Row. Nell'85 finalmente uscì il loro primo omonimo album, Pentagram, poi rilasciato più in là con il nome Relentless. Con un mix dei primi lavori del 70 e con un materiale dei Death Row, il sound violento e le liriche oscure permise alla band di consacrarsi nella scena musicale dell'heavy metal e ottenere la reputazione di pionieri del doom metal più classico. Quindi ragazzi, adesso il doom entra veramente a far parte, a diventare un genere vero e proprio, lo si modella da queste altre band e si evolve. Quindi partiamo da qui, seconda traccia dell'omonimo album Pentagram, All Your Sins. Thank you. Questa Fringuelli era All Your Sins, tratta dall'album dei Pentagram, Relentless o Pentagram, del 1985. Bene, come avete potuto notare, le sonorità proposte dai Pentagram risultano già più cupe e pesanti di quanto non fossero quelle dei Sabbath. Sono i Sabbath più pesanti, quindi le loro sonorità furono manipolate dirigendo le atmosfere su un'altra strada molto più estrema. Passiamo ad un'altra traccia dell'album, per poi affrontare il loro secondo lavoro. Quinta traccia, Relentless. Questa era Relentless. Passiamo al secondo album della band Pentagram, Day of Reckoning del 1987. La formazione cambia e la band ritorna nelle scene con un sound molto più definito e possente. Ne è una prova la seconda traccia del CD con la quale partirò subito senza dilinguarmi oltre. Questa è Evil Seed. We'll be right back. Questo è il Doom, ragazzi. Questa è invece era Evil Seed, tratta dall'album Day of Reckoning del 1987 dei Pentagram. Bene, signori, con loro la finiamo qui, anche perché pur essendo una grande band e tutte le cose abbiamo detto, la loro discografia è molto lunga e secondo me questi sono i pezzi più importanti per il genere, quelli che ci servono a noi per capire bene come nacque lo sludge e lo stoner rock. I Pentagram, sempre fedeli al loro stile, ponendo poche varianti alla loro musica, continuano fino al 2015 a sfornare album che inneggiano al lato oscuro. portando avanti la testa a testa alta il genere. Bene ragazzi, siamo agli sgoccioli, per oggi è tutto. Spero vi sia piaciuta l'idea di questo programma e vi do appuntamento al prossimo giovedì, sempre dalle 4, qui su Radio Wombat e a Diabolus in musica. Vi vorrei lasciare con un brano che forse non sarebbe corretto inseguire in questa categoria, di fatto non lo farò, ma loro secondo me sono altri padri assoluti del genere estremo, hanno tutta una loro categoria. Bene, ci vediamo giovedì prossimo per chi vuole o per chi ci sarà. E vi lascio con loro, gli intramontabili e monumentali Motörhead, e con lo zio Lemmy che è sempre con noi. Questa è Terminal Show, tratta da Inferno del 2004. Pace e amore. The lost world reign and is made to come.